volevo lasciare più domande. Se sei al day è un problema. È un problema di sicurezza e quindi dovrai fare molta attenzione a tutti quelli che possono essere i bug che ci sono nella distribuzione che hai installata e quali sono gli improvement, chiamiamo così, la distribuzione, anche perché al day gli studenti mediamente non hanno niente da fare che guardare i siti e vedere come posso bucare o rompere le palle all'amministratore di sistema oggi, più o meno è questa la filosofia. Se sei a filosofia o scienze politiche, è qualcuno del day che sta vedendo perché ha detto vuoi che fesso mi faccia bisogno, ecco, infatti vedi queste migrazioni. Come ti dicevo, è un dipende molto dall'ambiente in cui sei. Sì, no, ma per esempio so che la psicologia intanto vado avanti con una taglia perché sennò dicevo che la psicologia hanno delle norme interne severissime, sì, per cui certe manovre le può fare solo il tecnico addetto, giusto, e l'utente deve sempre fare riferimento a quello, per cui è sì, vabbè, insomma, allora è tutto imbalsamato e non ci sono problemi, è giustissimo, così deve essere. Gli utenti non devono mica mettere le mani dappertutto, sono utenti, la trappola per topi sulla tastiera, no? Vabbè, io qui ho messo proprio un paio di righe sui pick-up, giusto per descrivervi un po' che tipo di distribuzione è. Il suo scopo è quello di proteggere le reti su cui è installata. Fa di tutto di più, può impostarci le politiche di firewalling, permette la creazione di VLAN, fa sniffing, analisi del traffico, traffic shaping, ovvero diffusione del traffico, se io voglio dare più banda da una parte rispetto ad un'altra, e non è una cosa banale perché non tutti la fanno e non è facile farla. È fondamentalmente, tirando le somme, è un router firewall evoluto e alcune funzioni di controllo personalizzabili. Potenzialità rispetto a un apparato di quelli che si comprano e si cacciano su è che si possono personalizzare in quasi tutto praticamente, quindi è molto flessibile. Un po' di pro e contro, leggo i contro perché i pro ho fatto abbastanza pubblicità. Poche se non nulla ottimizzazioni del sistema, tutto quello che posso toccare nel router e firewalling mi è permesso, qualsiasi cosa che vada fuori da questo è molto difficile. Richiede molte risorse hardware per i servizi di proxy e content filtering, questo se paragonate ad altre distribuzioni che si possono trovare. Consuma veramente tanto. E gli add-ons non ufficiali, quindi i plugin per capirci, che vengono aggiornati ogni tanto, quando si ricordano che devono fare anche quello. L'altra distribuzione che ho portato è quella di Dance Guardian, che fondamentalmente è specificamente per il filtraggio dei contenuti web. È un po' diverso dal precedente, perché prima parlavamo del traffico di rete, adesso parliamo di filtrare tutto quello che non vogliamo far vedere su internet, permettendo l'accesso. Questo è importante per quanti lavorano nelle pubbliche amministrazioni, perché c'è un caso a... era un comune qui vicino a Padova, non posso fare nomi perché mi stanno registrando, dove è arrivata una bolletta di 20.000 euro per la connessione a internet perché si sono connessi a siti particolari ed è venuto fuori di tutto di più, insomma. Infatti DPS, documento sulla privacy, tutte queste cose richiedono insomma un minimo di controllo. L'ultima cosa, che è quella che sto cercando di mettere in piedi adesso nei nostri uffici, è un server syslog, fondamentalmente è una macchina che recupera tutte le informazioni, i log dei vari server, router, firewall. Perché è importante? E qui è difficile spiegarlo alla gente. Non è una macchina buttata via. Se succede un attacco, se succede qualcosa, un attacco informatico, qualcosa, avere la possibilità di avere lo storico di come funzionava la macchina da un'altra parte è importante. Ipotizziamo un server di posta che viene attaccato. Server di posta, io come hacker attacco, cosa faccio? Prima cosa che faccio è cancellare le mie tracce per cui possano risalire a me. I file di log, sicuramente. Tutto quello che riguarda l'accesso del mio IP o di qualsiasi altro parametro che mi permetta o che permetta agli attaccati di risalire. Se io i file di log li tengo solo sulla macchina server, per me, hacker, è vita facile. Una volta che sono entrato e bucato il server, comincio a fare le modifiche. Chi si è visto, si è visto. Se io questi dati, però, li copio in una seconda locazione, che magari anche a chilometri di distanza, in una server farm da un'altra parte, io, hacker, ho la vita molto più difficile. Perché è vero che posso intervenire localmente attaccando il server, però tutte le informazioni che permettono alla polizia postale di risalire a me non le trovo sulla macchina che io ho attaccato, ma sono archiviate da un'altra parte. E questo potete scegliere per attacchi hacker, per problemi agli apparati di radio. Se un cliente mi dice ma io non ho avuto la connessione internet dal lunedì al mercoledì, e magari non si sa il perché, non si sa il per come, gli apparati sono bruciati, qualcuno ha messo le mani, ha fatto casino, io ho un archivio, una specie di storico di quello che è successo alle macchine, che parallelamente agli strumenti di monitoraggio che ho visto prima, mi permettono di avere una descrizione dettagliata di tutto quello che è successo. Ricordiamoci che questi strumenti sono pensati per ambienti lavorativi, dove girano soldi, problemi, denunce, di tutto di più. Non è solamente a uso domestico, per cui a casa si può divertirsi a provare. Quando cominciano a essere clienti poi come banche, aziende, industrie, così, vogliono sapere perché i loro dati sono andati persi, vogliono sapere perché la loro connessione internet, quindi i documenti che erano spedito, non sono arrivati. Pesa sta cosa. Spero di stare dentro 10 minuti. Sì, ci sono. Chiudo con questa bellissima cosa che riguarda la sicurezza proprio. La lascio proprio come cappello, perché la sicurezza è bella, ricordiamoci come operatori informatici di reti o di sistemi che troppa significa uccidere praticamente i servizi. Sì. Deve esserci una giusta via di mezzo, ecco. Bene. È stata una lezione intensa. Spero di non avervi annoiato. Se ci sono delle parti specifiche, l'antenna non apre. Se ci sono delle parti specifiche che volete che approfondiamo, se ne può parlare. A me è capitato ultimamente di avere i dubbi amletici per due motivi. Debian di su usa syslogd. Sì. Il suo demone sereno che con capolog più o meno si capisce. Debian a un certo punto ha avuto un momento di crisi esistenziale su cosa usare con le loro installazioni di default, sì. E ha iniziato a usare rsyslog. Sì, remote syslog. Sì. Esatto. Si è creata una specie di guerra di religione fra remote syslog e syslogng. Io me li sono un attimino guardati tutti e due, mm-hmm. E li ho apprezzati tutti e due perché sono due progetti diversi, ma che entrambi sono molto pregevoli, e ho apprezzato l'idea di usare rsyslog perché secondo me è più snello, mm-hmm. E ha quella bellissima cosa che a me piace tantissimo di avere in maniera semplice dei plugin per dei database in cui io posso inserire i log delle mie macchine in un database e posso centrare questi log. Questa cosa può piacere tantissimo come fare schifo, capiamoci, mm-hmm. A me piace tantissimo. Una cosa che mi piaceva sapere se tu sapevi sì di centralizzazione di log da differenti macchine e di come questi vengono storati, cioè perché sì, lo so che la serie è il primo l'uovo, la gallina e anche il pulcino in mezzo, però. No, lo sto affrontando proprio in queste settimane, per quello che ti dico che è fresca e ci sto pensando anch'io. Allora ti dico proprio brevemente come mi sto orientando io, che ragionamento sto seguendo. Non ho andato a finire il maledetto. Eccolo qua. Allora, io so alcune cose. Syslog, bellissima cosa. Il problema è che le informazioni che posso storare sono infinite. L'immagine del lucchetto che abbiamo visto prima. Aspetta. Adesso la recuperiamo. Se potete anche alzarvi, cioè, se volete sdranchirvi le gambe. Non è così. Eccolo qua. Questo tipo di lucchetto qui, con questa gradazione, viene utilizzato per definire anche un altro tipo di divisione della sicurezza, ovvero quella dei warning. lasciate stare quello che c'è scritto. Fondamentalmente lo stesso tipo di livello di pericolosità può essere a seconda delle informazioni che riceviamo. Il nostro server può darci soltanto delle informazioni generiche, e sono tante, oppure via via in funzione della gravità abbiamo le informazioni un po' più, gli alert, i warning, critical, disaster, sono in fiamme, insomma, scegliete, sono sette livelli di gravità. Nel syslog, come quello che sta facendo lui, fondamentalmente, si può archiviare tutti questi dati in funzione della pericolosità, diciamo così, e quindi tramite il database fare delle query e vedere tutto quello che succede in una giornata, dei warning o degli alert o di quanti apparati vanno in fiamme. Il problema è che tutti questi dati sono tanti. Se voi prendete un file di log della distribuzione Linux qualsiasi, server, il mail.log, tanto per dirne una, se vuoi un server di posta interno, così, vi fa una cronistoria infinita. E io ho spedito questa mail, e l'ho ricevuta, e l'ho passata a spam filter, e questo. Tutto questo, se non state attenti, finisce tutto nel syslog. E questo è un bel problema. Abnorme a un certo punto. Sì. E anche perché quel traffico, riprendendo il discorso della rete di prima, gira su canali, su fibra, su cavi, quello che volete, e si aggiunge a tutti gli altri servizi che già ci girano. Quindi quello che stiamo facendo noi, per tornare alla domanda che hai fatto, è fare un syslog centralizzato, quindi recuperare i dati identificati in funzione degli warning o superiore, archiviati in un database, visualizzabili facendo dei report in funzione della data, dell'ora e del tipo di macchina. Questo è il quadro complessivo, quindi fondamentalmente è quella la strada. Io fino adesso non ho trovato nessuna distribuzione che nativamente facesse questa cosa, speriamo che arrivi presto, perché è una cosa che, tra l'altro, cos'è il, non il DPS, cos'è il, quello della privacy, come si chiama, il garante della privacy, chiedeva espressamente in alcune lettere che ha fatto per la pubblica amministrazione o per quant'altro. Intanto è anche cambiata a novembre, c'è una nuova, sì, nuova release del 193. Stanno più sentendo che è cambiata ancora. Tra l'altro, non so se avete letto cos'è che adesso gli amministratori di sistema sono responsabili dell'archiviazione dei log e devono garantire che siano immodificati o immodificabili. Se adesso qualcuno mi spiega come fa un amministratore di sistema a rendere immodificabili i file di log a tutti, lui compreso, gli offro una birra. Perché ti sali su CD. Esatto, li metti su un CD. No, no, perché lo puoi modificare, puoi salvarlo. Devi salvarlo prima, devi masterizzarlo. Però se dimostri che lo stai salvando con la data che è stato creato, sì, quindi... Ok, metteremo la firma digitale, perché okay, esatto, va tanto di moda anche quello. Se capire poi costruire un plugin per Brasilo che prende la cicada, esatto, firmi il CD, no, lo stai masterizzando. Spengo se vuoi. Sì, grazie, queste ultime parti in libertà. Grazie.